Albia, questo è per te. Albia, cinquantenni e oltre, che amano ancora essere attivi e autonomi, cercasi come incaricati vendita Herbalife. No, impiego. Vabbè, allora non è un lavoro. Zona Prenestina. Ma perché vuoi mettere il dito nella piaga? Ma poi scusami, attivi autonomi perché a 50 anni. No, sei finito. Perché? Allora, una segretaria con esperienza nel settore informatico. Requisiti: ottima conoscenza dell'inglese, ottima conoscenza di tedesco, ottime competenze informatiche, disponibilità a orari flessibili, full time, part time, festivi, bellissima presenza. Certo. È previsto un contratto di somministrazione di 3 mesi. Che? Oh mamma, che è somministrazione? Non lo so, che vuol dire? Un contratto cioè? Di somministrazione. A minestra? Ti danno una minestra? Senti questo invece, senti questo. Allora, Corriere Internazionale, seleziona per gestione spedizioni. Requisiti. Vabbè. Esperienza consolidata in ambito operativo. Spiccate capacità organizzative, comprovata abilità nella gestione delle risorse umane, ottimo inglese e francese, buona conoscenza a sistemi applicativi più diffusi, laurea, età massima 25 anni. No, massima 25. Coraggio. Ma dove l'ha fatta l'esperienza? Consolidata, poi, consolidata. Sì, all'asilo l'ha fatta. Ma... Poracci, allora questa qua no, sei questo. Cercasi persone alte per pulizie persiane o straniero bravo. Cioè, in un altro no, che si arrampica, sì, lo straniero salta. C'è un numero di telefono, insomma, non se vuoi chiamare tu. Pulizie persiane. No, no, uno per noi sì, attori. Dai, prego. Allora. Il Teatro Stabile del Lazio, per l'inaugurazione della sua nuova casa nel centro storico di Roma, apre le selezioni dedicate ad attrici professioniste. Ecco. Unici requisiti richiesti, ma fondamentali: una carnagione, capelli compresi, molto chiara, e un'età che non superi mai 30 anni. Cioè, no, che senso? Ma mai, mai. Cioè, bionda e immortale. No, perché prima o poi 30 anni li superi. Cioè, non è. Mai, no. Ma curriculum, formazione, le scuole che hai fatto. Ma sei antica. Siete proprio fuori moda. Ancora col curriculum. Mamma mia. Dai, qualcosa più alla ragazza nostra madre cerca, sì, no, per piccolo aiuto. No, aspetta, azienda scusa questa. Macellaio, pollarolo, salumiere, requisiti. Bella presenza. Beh, io sono d'accordo. Anche perché la segretaria bella al macellaio io brutto. Lo voglio bello. Allora, signorina, giovane, intelligente, volenterosissima, attiva conoscenza dattilografia, miti pretese, per primo impiego cercasi. Presentarsi in via Savoia numero 31, interno 5, lunedì ore 10, 11, 16, 17. Posto di datilografa da chissà quando aspettato è promesso per l'indomani. Forse nemmeno una lettera del fidanzato le avrebbe trovate così sollecite all'appuntamento. Doveva diventare il luogo del disagio. Delle 300 accorse 150 si accalcavano sulle scale per arrivare prima a presentarsi. Un boato, conclusione di una bomba, il gridare di tutte quelle ragazze. La scala era crollata. Vigili e polizia sono accorsi al salvataggio di quelle rimaste sospese sul tragico baratro. 77 le ferite, le più giovani avevano 16-17 anni, erano appena uscite dalla scuola di dattilografia. Primo impiego, miti pretese, diceva l'annuncio. Forse ciascuna pensava al paio di calze o alla borsetta che si sarebbe comperato col primo stipendio. E invece hanno lasciato qui la loro vecchia borsetta. Erano uscite di casa dando l'ultimo di rossetto, elettrizzate dalla speranza. 77 sono distese nei lettini degli ospedali di Roma. Una di loro è morta. Allora, signorina, giovane, intelligente, volenterosissima, attiva conoscenza dattilografia, miti pretese, per primo impiego cercasi, presentarsi in via Savoia numero 31, interno 5, lunedì ore 10:11, 16:17. 4 mesi dopo il crollo cominciai la mia inchiesta sulle ragazze di via Savoia per il film di Giuseppe De Santis. La mia prima tappa fu il luogo del delitto, via Savoia numero 31. Oh, via Savoia è posta in un quartiere borghese di Roma, il quartiere Ludovisi. Ed è una strada in discesa, compresa tra la via Salaria e viale Regina Margherita. Via Savoia è nettamente divisa in due parti. Una alla sommità, quasi all'incrocio con la Salaria, dove la gente appartiene alla piccola borghesia povera, di origine e mestieri popolari. L'altra parte, fino al grande viale, abitata invece da blasonati, da deputati, da ricchi ebrei. Ecco, è in questa seconda parte della strada che è situata la palazzina del Crollo, al numero 31. La palazzina è costruita nello stile comune a tutta l'architettura romana di lusso intorno al 1920, tendente molto al villino, con chiari riferimenti floreali. Alla portiera del 31 io mi presento come giornalista. Salve, sono Elio Petri. Con l'unico risultato di accrescere la sua diffidenza. Mi accolse molto sgarbatamente, senza neanche aprire il cancello. Attraverso le sbarre si svolse un colloquio piuttosto animato. Sono stufa, non voglio dire più niente. Ma guardi che io sono di un'agenzia americana. Ma che mi importa a me, venisse pure il padre eterno, io non parlo, quel che è successo è successo. Beh, un'intervista con noi le può far comodo. Ma non mi interessa niente. E poi quel giorno, guardi, io nemmeno c'ero. Ecco, non c'ero. Vabbè, mi lasci parlare con chi c'era. Non ci c'era parlerò... nessuno, andatevene. Avevo di fronte una donnetta spiritata che mi parlava senza neanche guardarmi in faccia. Ora implorava quasi di essere lasciata in pace. Ora sembrava voler aizzare un cane immaginario. No, c'è chi dice che lei ha mentito. E che non è vero che avverti le ragazze del pericolo di una disgrazia, come poi lei ha dichiarato alla stampa. Ma signora, dicano pure quello che vogliono, quelle lì. Quello che dovevo dire io sta scritto sui giornali. Vabbè, allora non se la prenda con me, se scriverò soltanto tanto quello che dicono le ragazze. Io me la prendo con tutti. Andatevene. I prepotenti non li posso sopportare, ne ho abbastanza di tutti. Disse così e mi piantò in asso, scomparendo svelta dietro la palma nana del giardinetto. Signora? Signora? Boh. Allora andai dal portiere del palazzo di fronte. No, io non c'ero nemmeno quel giorno, stavo dall'altra parte della città. Vabbè, allora mi lasci parlare con chi c'era. No, non c'è stava nessuno. E poi guardi, se c'era qualcuno, nemmeno lui sa niente. E senza tante cerimonie se ne andò. Un altro portiere che andai a scovare nella sua lussuosa guardiola. Appena sentita la parola giornalista, io me faccio l'affari mia. Insomma, il mio lavoro nella parte signorile di via Savoia fu veramente infruttuoso. Poi parlai con altri portieri, con altre donne di servizio, ma inutilmente. Mi sembravano tutti quanti educati alla riservatezza, a non immischiarsi, a non dare noia ai signori. Avvertì tra di loro una sorta di sottile omertà. Ma migliore accoglienza trovai nella parte popolare di via Savoia. Qui tutti si conoscono per nome, cognome, soprannome. Qui nessuno aveva paura di mischiarsi. Anzi, c'era chi accusava questo e quello. Beh, magari a sproposito. Chi? La portiera del 31. E chi la conosce? No. Io non me la faccio da quelle parti, non m'attirano. Ma non ci si trova, ma non dico un'osteria, ma nemmeno una rivendita di sale e tabacchi. Del Crollo però purtroppo, figlio mio, non son granché. Oh, per combinazione quel giorno ero rimasto solo e non me potevo muove. Però se cerca uno che ha visto veramente qualche cosa, è fatta dal sormemmo, il falegname, è amico mio, è quello. Ammazza, quello sì che ha dato una mano forte, malgrado l'età, perché noi siamo un gruppetto, Dio un po', che ci piace il vino. E comunque, se lo vuole proprio sapere, io un'idea me la so fatta. E certo, per me è tutta colpa del ragioniere che ha messo l'annuncio. Ma che c'entra quello? Ma che dici? Ma come che c'entra? Ma è chiaro che quello era ingordo di vederle tutte quante per scegliere proprio la migliore, no? Vada dal sormemmo, vada. E vada dal sormemmo, mamma mia, quel giorno non me lo scordo più finché campo, sai, c'è stava tutto, sto via vai de gente che andava su e giù, c'è stava un polverone, sti pompieri. Vabbè, oh. Dai, proprio sul posto preciso non c'è stavo. E come potevo lasciare sola la guardiola? Ma vada dal sormemmo, no? Ma che bevo di... A me mi è uscito il pallone. E chi mo ripaga a me il pallone? L'ernia. A quelle poveracce l'ospedale gli ha mandato persino un conto. Lo so, voi siete giovinotto, certe cose non le sapete. Ma l'uomo è egoista. Come quello scioffè che non voleva accompagnare qualche ragazza ferita all'ospedale dopo il crollo. Io arrivo al 31, no? Entro, ne pio una a caso. Vabbè, me stava aiutare pure un altro. Corro fuori di corsa perché sta ragazza mi pareva mezza morta. Fermo la prima automobile che passa, apre qua, gli dico. E quello mi dice? Non posso, me se sporca la tappezzeria. Apre qua, scemo, è quello, ma il padrone mi ingrana la marcia. Io non ci ho visto più. Ho mollato la ragazza. Tanto ma stava reggio quell'altra. E io ho dato un cazzottone sulla bocca. Hai fatto bene, è giusto. Ah, beh, mamma, ma questo è l'egoismo umano proprio, sa. Ah, che stanchezza. Bah. Comunque quel giorno io mi aspettavo tutto tranne che quel macello. Arrivo al 31 e vedo tutto quella ciacca pisto. Ammazza che migragna, figlio mio. Vado per scoprire una che c'aveva le vesti fino in fronte e vedo che non c'aveva manco le mutandine. No. C'aveva giusto un pannuccetto che la fasciava al cavallo. Vabbè, oh, erano tutte un po' miserelle. Eh? Certo che signore per star lì non dovevano essere. No, ci stava pure Vincenzina, la figlia di Perrone. E c'era Flaminia Colini. Sì. E anche Margherita Zapapa. Enrica Colini, la sorella. E Giulianella Tagliaferri. Dina Spaccia. Anna Maria Francisci. Pietra Betronia. Giovanna Bomba. Maria Serangelo. Anna Maria Rossi. Maria Ione. La lunga lista delle ragazze ferite che tutti i giornali all'epoca del crollo pubblicarono mi servì da guida, fornendomi il cognome e l'indirizzo di ognuna. Nella scelta delle ragazze da intervistare non seguì un criterio particolare, tanto per cominciare ne scelsi così a casaccio una e la rintracciai. Si chiama Teresa. Teresa. 16 anni e sembra ancora una bambina. Visetto rotondo, caschetto biondo e due begli occhioni ingenui. Ah beh, quelli ce l'ho un po' E azzurri. Ammazza precisa proprio. Teresa abita al Quadraro. Sanna, no? Mettellina, nina, nina. Fino a qualche tempo fa, arrivare al Quadraro per i romani era già come intraprendere un lungo viaggio. Significava andare for de porta, in campagna, sulla strada per Frascati. Ci stava qualche osteria col vino buono, mucchi di casupole costruite alla bella e meglio, e l'aria buona. S'andava a trascorrere una mezza giornata per una bella scorpacciata da bacchio alla cacciatora. Fior de limone, gira la faccia che mi fai paura, ammazza de profilo, c'hai il cupolone. Fiore d'arancio, e le vedete qua va a nasconne, se mo non te ne va. E dai, scusate, ma t'arriva un gancio. Fior de mughetto, tacete tutte e due con quelle bocche, che se non se sbrigammo se ne vanno a letto. Oh, quanto è brava la radio, è ancora più brava. Troppo brava la mandracchia, ma lei sta bene, mamma. Oggi il Quadraro è un grosso borgo alle porte di Roma. È formato da centinaia di costruzioni irregolari, a un piano, a due piani, dove abitano migliaia di persone. Da baracche che si sono avvinghiate alle antiche mura dell'acquedotto romano, e da qualche tempo da casermoni a 8-10 piani, i cui appartamenti vengono affittati a pigioni esosissime, dalle 20 alle 40.000 lire al mese, tanto per capirci, quasi uno stipendio mensile. Prima dell'ultima guerra, le ragazze che abitavano nelle borgate venivano raramente in città. Ogni volta che questo accadeva era un avvenimento di una certa importanza. E se indossavano l'abito della domenica e si imbarcavano per il grande viaggio sui traballanti e polverosi autobus che collegano Roma alle sue 100 borgate e che sono rimasti da allora gli stessi. Esistono tuttora ragazze delle borgate che non sono mai arrivate fino al centro propriamente detto. È stato l'acuirsi della miseria che ha spinto le ragazze dalle borgate verso la città a cercare un lavoro qualsiasi. I mestieri di queste ragazze sono tra i più avvilenti e i meno retribuiti. Le pulizie nei cinema, negli uffici, i mezzi servizi, lavare i panni, attaccare le etichette alle bottiglie dell'acqua minerale, cucire per quattro soldi le divise dei soldati. qualcuna di loro tenta di emanciparsi, di conquistarsi un mestiere meno ingrato e meglio qualificato, come quello della dattilografa, ma non trova la strada facile. Come Teresa. Arriva in via Savoia con la solita sfiducia. Ma lei lo sa. Ma lo sa in quanti posti ci avevo già provato senza risultato? Infatti arrivai alle 10:20, quasi l'ultima. Appena vidi che c'erano tutte quelle ragazze prima di me, pensai che era meglio se me ne andavo. Ma poi restai, tanto per vedere. C'era questa qua che stava dicendo, quello lì. Quello lì le vuole giovani. Io ormai sono vecchia per loro. Pareva che stesse parlando dei cavalli. Comunque, io ho chiesto se quello dell'annuncio era già avvenuto, no? E una mi ha detto, sì, è venuto. Ci ha fatto un bel sorrisetto ed è salito. Io te pe, è beato lui. È segno che è contento. Stavo con un piede sul primo gradino e un piede sul secondo e all'improvviso, un botto. E sono caduta. Non ho sentito più niente, mi sono ritrovata all'ospedale. Ma lo sa che ho chiesto ad andare al gabinetto, non mi ha voluto accompagnare nessuno. Ma io c'avevo una gamba e un braccio rotti, eh? Era tanto tempo che lo cercavo, sto posto, e mo l'avevo trovato. All'ospedale. Comunque, guardi che io leggo sempre gli annunci dei giornali, eh? Una volta mi sono anche iscritta nelle liste d'un'agenzia di collocamento. Il capo era un siciliano, tutto nero, che si chiamava Nicola, però una ragazza che bazzicava l'ufficio, una certa Caterina, lo chiamava sempre Nicolino. Io ci andavo tutti i giorni, ma non succedeva mai niente di nuovo. In tutti i posti dove io andavo, mi rispondevano, dopo avermi squadrato da capo a piedi, ma lei è troppo piccola. Me lo ripeté anche Nicola al siciliano, una volta che preso il coraggio a due mani andai da lui e gli dissi, oh, ma questo posto deve avere pazienza. Siccome però io non vedevo in giro Caterina, gli domandai che fine avesse fatto. Caterina non c'è, se n'è andata. Ma scusi, ma non era un'impiegata sua? Perché me lo domandi? Ma come perché? Perché se era un'impiegata sua vuol dire che lei ha un posto libero e lo potrebbe dare a me. Sei troppo piccola. Scusi, signor Nicola. Io sono piccola, è vero. Ma ho la licenza comuna di 20 anni. So scrivere svelta, so stenografare bene. Ma sei troppo piccola. Ma che vuol dire? Non me lo fa dire. Ma perché? Che è un segreto, va bene. Io ti prendo. Se tu ci stai a darmi i bacetti. I bacetti? Scusi. Guardi, signor Nicola, che io sono venuta qua a cercare lavoro. Io coi bacetti sua non ci faccio niente. E allora capì perché Caterina lo chiamava Nicolino. A me queste cose mi fanno rabbrividire, mi fanno pensi che non sono nemmeno fidanzata. Sì, ma che? Ma io c'è un sacco che mi stanno appresso. Ce n'è uno che ha 23 anni e fa l'autista dei filobus. Io non lo voglio. Già c'ho mio padre che fa il tranviere, che casa mia è diventata un deposito dell'ATAC. Però è carino, eh? No, ma veramente. Ma il fatto è che io non mi sento ancora portata per queste cose. Mi piace, tipo, ballare, no? Ma nemmeno tanto. Ma lo sa che i miei amici mi sono venuti a trovare in ospedale e volevano ballare con tutto che c'avevo la gamba ingessata. Ma che scemi. Però l'ospedale non è stato un bel periodo. No, non ho dormito per una sola notte tranquilla, per 15 notti. Poi c'ho il pensiero della ragazza che è morta lì proprio nella mia corsia, sa? Anna Maria Baraldi. Però sono venute le dame dell'aristocrazia e ci hanno regalato a tutte quante un foulard colorato. Allora hanno pulito tutta la corsia, ci hanno messo dei vasi coi fiori che prima non avevamo mai visto, e la caposala diceva, ragazze, su, fatevi belle, che vengono le dame dell'aristocrazia. E una di noi, ma non gli ha detto, ma va a morire ammazzata, va! E non si è mai saputo chi sia stata. Italiani! La parola cinema sulle ragazze come Nora ha un grandissimo effetto e io con lei di questo ho approfittato abbondantemente, ma ha procurato qualche piccolo fastidio, è vero, però mi ha permesso di avere con maggiore facilità le sue confessioni. Quando ha saputo di trovarsi di fronte a un aiuto regista, Nora ha falsificato la sua età, ha detto d'avere 22 anni. Vabbè. Ora, quanto Nora tenga al suo aspetto fisico lo si comprende dal modo ricercato di vestire e di truccarsi. Eppure povera, ma per quanto si incipri, ma proprio dall'attaccatura dei capelli fino allo spiraglio di petto che il vestito lascia intravedere, Nora non riesce a nascondere una carnagione poco gradevole, leggermente spugnosa. Beh, a dire il vero è stata tra le più sfortunate delle ragazze di Via Savoia, perché dal crollo ha riportato una frattura dell'osso frontale e una cicatrice le attraversa tutta la fronte. La cicatrice a prima vista non farebbe grande impressione, finché poi però non ci si accorge che sotto la pelle l'osso è stato asportato e che c'è il molle. Beh, l'incidente di Via Savoia ovviamente ha scosso il sistema nervoso di Nora. E inoltre Nora, nel suo intimo, crede d'avere un temperamento d'artista. E io vi lascio immaginare cosa significhi temperamento d'artista per una ragazza della piccola borghesia romana, assidua lettrice dei grandi rotocalchi, nonché entusiasta ascoltatrice dei programmi della Rai. No, a scuola ero proprio un disastro, avevo sempre 6 in condotta. Però mi piacevano i fiori e la musica. Anche adesso li adoro, che c'entra? I fiori, la musica e le carte sono i miei 3 passatempi preferiti. A me, da andare a scuola? Non mi piaceva proprio, però sono stata costretta ad andarci perché la mia è una famiglia dove il pezzo di carta è importante, sa, mio padre fa l'impiegato. A me mi piaceva suonare la fisarmonica. Ma tutta la mia vita è stata bellissima. Certo, da ragazzina mi piacevano di più i giochi maschili, ma arrampicavo sugli alberi, giocavo a nascondino, raccoglievo i fiori, insomma, ero proprio un maschiaccio. Che c'entra? Adesso è diverso. Se madre natura mi ha fatto donna, donna debbo essere. Per ora sono fidanzata, ho un ragazzo che fa lo studente, che è alto 1,80 m con 2 spalle così. Nora saltava volentieri di palo in frasca, tanto per la sua innata e un tantino artificiosa vivacità, quanto per una sorta di tic nervoso. Il periodo dell'ospedale è stato proprio bruttissimo, guardi. Sarà che a me anche la scuola, il periodo della scuola è stato tremendo. E sarà che a me quando mi fanno un torto io non resisto, ecco, io devo reagire. Però i professori mi volevano bene. Senta, scusi. Sì? Mi può dire che film state facendo? Io le spiegai che questo ancora non si poteva sapere, dal momento che il film sarebbe scaturito proprio dalle mie interviste. Cercai insomma di dare importanza all'inchiesta, per farla sentire indirettamente importante e necessaria per sì, il film. Sì, tutte queste cose le ho capite, ma la parte delle ragazze, chi la recita? Beh, finché il soggetto non è pronto non si può decidere se far recitare le ragazze vere oppure le attrici. Ma scusi, lei non è l'aiuto regista? Se lei è l'aiuto regista deve sapere quello che fa il regista, no? sì, però se il produttore vuole una Gina Lollobrigida, beh, non c'è niente da fare. D'altra parte bisogna accontentare anche lui, in fin dei conti è lui quello che rischia di più. Ci dovete prendere a noi per fare la parte nostra. Io non lo dico per le solite ragioni, è che io sento di avere dentro qualche cosa. E poi non lo potrei sopportare di vedere me stessa interpretata da un'altra. No! Dicendo queste cose, Nora era sinceramente accorata. Beh, io ho capito che parlando di se stessi, è facile sentirsi artisti. E ci si sente dentro veramente qualche cosa. De Sica farebbe così, prenderebbe noi. E poi io mi sento portata. Pensi che non c'è stato giorno in cui io non ho cantato da quando avevo 10 anni, anche 1 o 2 volte al giorno, anche 2 o 3 ore. Infatti all'ospedale mi sono fatta portare la radio. Il periodo dell'ospedale è stato bellissimo. No, veramente l'inizio no, perché quando mi sono svegliata mi volevano fare un'iniezione. Oh, se c'è una cosa che io non sopporto sono le iniezioni. Allora ho detto con una mossettina tanto carina che mia sorella si è messa a ridere fino alle lacrime. Ho detto: signorina, mi freghi tanto. Scusi, ma a me che me ne viene in tasca? Poi si toccò la fronte. Vidi che era impallidita, aveva il volto stanco, come che abbia fatto una lunga camminata a piedi. Mi scusi, sa, ma dal periodo del crollo io mi stanco subito, devo fare degli sforzi terribili per ricordare. Allora, l'ospedale è stato bellissimo, sono venuti a trovarmi tutti i miei amici, facevo la comunione tutte le mattine, avevo la testa tutta fasciata, ma tutta la mia vita è stata bellissima. Vabbè, forse un giorno, un'ora di infelicità, ma perché c'era la guerra. Il tono di Nora non era più quello di una persona che, guardando dietro le spalle, non vede che una lunga catena di giorni felici. C'era qualche cosa che pesava sulle sue parole. Forse era lo sforzo mnemonico. O forse la consapevolezza d'aver vissuto più giorni grigi e monotoni che felici. Eppure, durante tutta la nostra conversazione, Nora non fece altro che ripetere che era stata bene, che aveva vissuto bene, che era stata felice. Beh, adesso devo proprio andare. Mi sto facendo fare un vestito nuovo dalla sarta, perché dopodomani è il mio compleanno. No, guardi, non posso proprio restare. Mi telefono. Anzi, perché non viene anche lei alla mia festa? No, saremo un po' di amici, cantiamo, balliamo. Io suonerò la fisarmonica per lei. No, grazie, grazie, ma dopodomani non posso, perché dopodomani è la festa della Repubblica. Bello schifo la Repubblica. Ma che dici? Ma sei monarchica? C'è scritto così. Campagnola, bella burdella fresca, campagnola, dai capelli e dai occhi come carbò, dalla bocca più rossa una zarzola, tessi la mi passione, batti batte streca uno. Streca un'oce, batti bat, alfa segna sti barat, tande un sciafca de gumme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, con te sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del ventre tuo Gesù. Santa Maria. Luciana è ferrarese e abita a Roma solo da pochi mesi. Ha appena 18 anni, ma il suo modo di vestire antiquato, la maniera di portare i capelli, tutti riuniti dietro la nuca in tante fitte treccioline, e il tono della voce, privo di brio giovanile, già fanno pensare a una tranquilla signorina di 40 anni. Non sapevo cosa chiederle, la sentivo guardinga, diffidente. Solo dopo molte e imbarazzanti domande riuscì a farla parlare di sé. Mio padre fa rappresentante di commercio. Beh, non si sta più bene a casa mia, insomma. Se le interessa, io sono venuta a Roma per cercare lavoro. Chiesi a Luciana se provasse nostalgia per il suo paese. Beh, sì, certo, beh. Perché qui a Roma non ho ancora fatto conoscenze. Allora, un po' di nostalgia ce l'ho delle mie amiche di Ferrara, che mi ricordo sempre. Io preferisco le ragazze non troppo moderne. Non so se lei mi capisce, vero? Insomma, quelle che non sono troppo allegre, ecco, che sono calme e tranquille. Io a Ferrara frequentavo il circolo dell'Azione Cattolica e ho sempre trovato ragazze così. Luciana ogni tanto si fermava, come per paura di rivelarsi troppo a uno sconosciuto. Io cercavo di aiutarla un po' con domande d'occasione. Le domandai, per esempio, perché si fosse iscritta all'Azione Cattolica. Mi guardò come se fossi stato un marziano. Beh, innanzitutto perché sono religiosa. La religione mi piace. Se non ci fosse la religione, ma saremmo tutti come le bestie. E poi l'Azione Cattolica fa fare lo sport e anche le opere di beneficenza. Avevamo un bel campetto di pallacanestro, che è la mia più grande passione. E la domenica si andava a fare beneficenza. Ci recavamo quasi sempre in un grande caseggiato della mia parrocchia e si entrava lì dentro a portare del conforto. Oh, erano case tutte gabbiette sporche, dove abitavano centinaia di persone e anche molti bambini. Noi cercavamo di sollevarli, ma quelli non ci badavano mica troppo, eh. L'argomento dell'azione cattolica evidentemente era l'unico in grado di scioglierle la lingua. Le domandai se anche qui a Roma frequentasse un circolo dell'azione cattolica. Boh, qualche volta vado all'oratorio con le mie zie, però poco, perché è un ambiente che non mi trovo. E qui a Roma le amicizie sono tanto difficili, sa? Ma pensi che anche all'oratorio ci stanno dei giovanotti che danno fastidio, non è mica come a Ferrara. E a me mi piacciono i ragazzi rispettosi e buoni. E qui a Roma se ne trovano tanto pochi, fanno solo gli spiritosi. Beh, veramente qui a Roma fanno ridere, beh, perché sono spiritosi per davvero. Ma pensi che quando che passo per la strada i ragazzini mi tirano con la cerbottana, posano già a fare gli uomini grandi. Una volta dei giovanotti mi fecero ridere, ma proprio ridere, perché siccome che portavo una giacchetta rossa, allora uno di essi mi strillò: ah signori, ma che è, comunista? Ha da venire baffone! Un'altra volta mia sorella mi ha portato a ballare con lei in casa di una sua amica, e un giovanotto, mentre che si era dietro di ballare insieme, mi disse: ah signori, lei balla come una piuma de ferro. E allora non ci sono più tornata, beh, perché mi sono scoraggiata e ho paura delle brutte figure. Luciana si accendeva, mostrava maggiore disinvoltura. In pochi minuti le erano tornati i suoi 18 anni. Ma venne a Roma molto ben disposta e sono rimasta colpita dalla sua bellezza. Ma lo sa che sono arrivata proprio giusto in tempo per assistere alla cerimonia del dogma dell'Assunta. Con tutta quella gente. Ed è il ricordo più bello della mia vita. A Roma faccio ancora la pellegrina, giro sempre accompagnata da mia sorella. Io ammiro soprattutto le bellezze e finirà che conoscerò Roma meglio di una ragazza romana, perché i romani sono fatti così, che ignorano le cose belle che hanno. Una volta sono andata pure da pellegrina a Trastevere e ci stavano tutti sti pani attaccati, era pittoresco. Beh, però c'è un'altra Trastevere che è più nascosta, silenziosa, forse anche per questo è meno nota, che è addossata al carcere di Regina Celi alle pendici del Gianicolo. Sono strade queste dove si ode solo lo stridio dei tram che passano per il Lungotevere o il rumore che fanno le carrozzelle sul selciato quando tornano alle stalle. Le guardie carcerarie che aspettano di dare il cambio, le educande accompagnate dalle monache che salgono in mesta fila per i bellissimi collegi del Gianicolo, o i parenti dei carcerati in attesa d'un colloquio. Sono questi gli unici forestieri che vi si incontrano. E io sono venuto qui per incontrare Vetulia e Angela Moretti, che sono madre e figlia. Abitano in un palazzotto seicentesco dall'intonaco in malora. I muri dell'ingresso sono graffiati in ogni senso da scritte molto polemiche sugli argomenti principali della vita di oggi. Beh, al centro di tutte le scritte c'è «Viva la pace» e «Abbasso la guerra». Poi intorno, come tanti petali, le altre più comuni: «Abbasso Bartali», «Viva io», «Fesso chi legge», «Lisetta fa l'amore con Spartaco». Sì, sì, è vero, è vero. «L'amore, l'amore». Ma va a dormire, va. È una drammatica porca Roma, abbastanza rara a trovarsi per via di quel porca che in genere nelle invettive sportive non si usa mai. Non ho fatto in tempo a entrare nel bugigattolo dove vive la portiera che mi sono scontrato... Mi scusi. Con una monaca che usciva frettolosamente, inseguita da una signora sui 50 anni che la salutava ossequiosamente. Prego, prego, s'accomodi, chi la manda? Evidentemente, oltre al poco lucroso mestiere di custode, la signora esercita anche quello della fattucchiera, perso. Ma le ragioni della mia visita si riferiscono di più all'ambito del suo mestiere ufficiale, piuttosto che al cerchio misterioso della sfera di vetro. Comunque, la signora è una donna abbastanza loquace e, per giunta, in vena di confidenze. Ma vuole le carte o vuole la mano, scusi, sa? Perché qua ci vengono pure i giovanotti. Sono un po' rari, è vero, però ci vengono. Allora io le ho chiesto se La monaca che avevo appena incontrato si trovava qui per caso o per farsi leggere le carte? Sta monaca qua vi ha fatto leggere le carte da me perché voi sapete se partono da Roma la madre superiore è un'altra monachella più giovane di lei. Io gli dico che vedo sempre il cavallo perché avevamo stabilito che il cavallo vuol dire partono, contenta lei. Ma questa qua è una vecchia cliente, eh? Che viene dal tempo della guerra. Allora mi serviva perché per regalo mi portava la pasta bianca, il pane, i barattoli. Questa qua, voi sapete se quelle due partono perché prima lei era favorita da superiore, invece adesso la favorita è quell'altra, quella più giovane di lei. Insomma, per far breve il discorso, sta monaca qua è caduta in disgrazia. E allora io tocca cucinare, io tocca pulire per terra. Lei dice che non è buona, che non gliela fa resiste. E poi non può sta a vedere la madre superiore che vuole più bene a quell'altra, perché lei gli vuole bene ancora, capito? Allora io le ho fatto altre domande. Ah, la signora non si è fatta pregare, eh? Forse sperava di essere messa nel film. Ma da me ci vengono tutti quanti. Le donne sposate vogliono sapere se i mariti gli mettono le corna. Io gli dico che per adesso non gliele mette. Ma che può venire il momento che gliele mette, tanto non mi sbaglio mai, le corna gliele mettono di sicuro i mariti. Tante altre volte le donne vengono da me per sapere se sono rimaste incinte. Beh, quelle non sposate, si intende, che si vergognano da dare al dottore quando si accorgono che c'è qualche cosa che non va. Oh, per carità, per conto mio, le ragazze sono tutte brave, eh. Certo, poi gli capita sempre che fanno all'amore, eh? E che c'è pericolo. Ma Gesù, ma che male c'è? Ma quando è una giovanotta, ma se non fa l'amore, ma che fa? Comunque, quello che gli devo dire, io lo so a memoria. Te sei fidanzata? Sì, come lo sapete? Lo sapete? Sta scritto qua, sulle carte. Guarda, stamma a sentire, spostate la sta data del matrimonio e sposatevi subito. Vedo uno col camice bianco che dice che devi andare da lui. Forse è un dottore. E quante vengono da me per sapere se troveranno lavoro? O loro o i fidanzati? Io gli dico sempre di cercare. Ma una volta una mappurella, ma non voleva che gli dicessi per forza di sì che lo trovava il lavoro? Io guardi che sono una tipa che non me va dell'ude. Gli dissi che c'è una disoccupazione, che manco le carte ci capiscono più niente. Comunque gli dico sempre di cercare. Come va in un ufficio? C'è un signore che come ve vede ve domanda qualche cosa. Beh, come se sbaglia. Comunque, per il fatto di via Savoia, lei deve sapere che io qualche cosa me l'ero presentito, tant'è vero che lo potete domandare a mia nipote, che io gli dissi, tu oggi non te muovi da casa. È sottinteso che la nipote della fattucchiera portiera fa la sarta e non ha mai avuto intenzione di mettersi a fare la dattilografa segretaria. No, menti. Che bonito, cia cia, un, dos, tres, cia cia cia, cia cia cia, cia cia, non importa che sia biondo oppure no, cia cia, boom, boom, l'importante è che sia giovane e carina, cia cia cia, non occorre la seconda, cia cia, boom, cia cia, nella sinibaia, cia cia, vai, che non c'è un bandilo, cia cia, vai, nella sinibaia, cia cia cia, che bonito, cia cia cia. Chiunque abbia vissuto a Roma, anche solo per poco tempo, avrà sicuramente udito raccontare da centinaia di persone mille episodi di corruzione sulla vita degli uffici, privati e statali. Gli impiegati a Roma sono come un paziente e gigantesco esercito che non avanza mai, dal quale tutti vorrebbero uscire e in cui ognuno però brama arruolarsi. Come nella vita di caserma, d'un'armata eternamente acquartierata, il pettegolezzo divampa negli uffici, compie in un'ora il giro completo delle gerarchie, dal capo divisione giunge fino al più oscuro usciere, o viceversa, e ritorna alla fonte arricchito, esteso, perfezionato. Prima della guerra, una donna che lavorava era considerata da naso, cioè poco rispettabile, per essere riuscita a trovare un lavoro qualsiasi, visto che chi assume è l'uomo e la donna avrà dovuto ripagarlo in qualche modo, no? E c'è un unico modo per la donna di mostrare la propria gratitudine all'uomo. Soltanto dopo lo scoppio della guerra, quando le donne furono assunte in massa in tutti gli uffici a causa dei richiami dei mariti alle armi, quando nelle famiglie non si guardava più tanto per il sottile purché in casa entrasse uno stipendio in più, soltanto allora il giudizio mutò. Per completare da questo punto di vista la mia inchiesta, volli parlare anche con dattilografe occupate. I padroni si sentono in diritto di fare quello che vogliono delle ragazze, tanto le ragazze lavorano solo per vestirsi. Dicono così i padroni. Beh, allora possederle è un modo per farle vestire meglio. Essi non capiscono niente della sensibilità femminile, sono stupidi e volgari. Un pomeriggio m'era messa a studiare le pratiche per vedere di migliorarmi. Il direttore mi chiamò e mi fece temperare le matite. No, i direttori cercano sempre di farti fare un lavoro umiliante in modo che poi tu gli sia grata ad ogni piccolo miglioramento. Poi mi fece sedere vicino a lui per aiutarmi a studiare le pratiche. Le pratiche! Mi prese le mani e tentò di abbracciarmi. In quel caso lì, o ci stai o è licenziamento. Una volta mi trovavo con la mia famiglia in un brutto periodo. Eravamo quasi rovinati. Allora mio padre parlò col principale e gli raccontò tutto. E lui dite te l'anticipo. Sì. Poi per un ufficio me lo rinfacciò. Io mi misi a piangere perché quell'anticipo l'avevo destinato per il corredo. Allora lui mi consolava, mi carezzava ridendo. Mi disse che si poteva aggiustare tutto solo a certi patti. A momenti gli sfascio la testa, al primo sciopero mi fece cacciare. Nel primo ufficio in cui lavoravo c'era una ragazza che si chiamava Giorgia! Che non faceva niente dalla mattina alla sera, non sapeva neanche scrivere a macchina, non era neanche bella, ma il capo non ci faceva caso anche perché era anzianotto. Queste cose le fanno naturalmente soltanto coi funzionari di un certo grado che le possono favorire. Certe coppie partono per veri e propri viaggi di lusso. Quando queste storie finiscono succedono i drammi, ne parlano tutti. È sempre il pezzo grosso che si stufa e vuole essere lasciato. La donna non vuole essere lasciata e lo ricatta. Grazie, direttore! Non importa se non sa cos'è l'inglese, se non capisce una parola de spagnol. Ciao, ciao! L'importante es que sia joven y bonita y que tenga alegre el corazón. Ciao, ciao, ciao! Bon, ciao, bon, bon, ciao, ciao, bon, bon, ciao, ciao, bon, ciao, ciao, bon, bella segretaria. Ciao, ciao, ciao, che bonito, ciao, ciao, ciao! Cha cha cha, che bonito, cha cha cha. Cha cha cha, che bonito. Cha cha cha. Fiamma abita al Prenestino, in un palazzo sotto certi aspetti storico. Uno di quei palazzi che i patiti di cinema, se sapessero dov'è, andrebbero in pellegrinaggio a visitare. Pensate che in questo enorme alveare del Prenestino Rossellini ha girato Roma città aperta. Vi ricordate la scena dell'uccisione del personaggio di Anna Magnani, la razzia dei tedeschi? Il Prenestino è stato il primo quartiere ad avere l'onore di vedere nascere questi famosi grattacieli. Grattacieli. In realtà una serie di costruzioni tutte uguali, tutte ugualmente bucherellate dello stesso colore. Grigio-ocra, ocra-grigio, grigio-ocra, all'infinito. E poi all'interno che queste abitazioni rivelano la loro vera origine, di abitazioni per piccoli impiegati, operai, artigiani. Infatti all'interno gli appartamenti sono stretti, bassi, ci si rigira a malapena. E in ogni piano ci sono 3, 4, anche 5 appartamenti. Ed è in uno di questi buchi che abita Fiamma. Beh, mi dica lei che senso c'ha una vita come la mia. E nemmeno posso sperare di cambiarla tanto facilmente. A me nessuno mi ha pregato di mettermi a cercare lavoro, però io vedevo mia madre triste per le ristrettezze, Mio padre sfacchina tutto il giorno cercando di darsi da fare in mille lavoretti da disoccupato. E... Mio padre è ufficiale dell'esercito. Sì? È un aristocratico di un'antica casata piemontese. Ha sempre fatto l'ufficiale, però quello che guadagnava non gli bastava assolutamente. È sempre stata mia madre a mantenere la famiglia. Comunque, guardi che a me i miei non mi hanno chiesto mai niente, eh? Ma io cominciavo a capire. Perché è proprio l'età che impone il lavoro. E una comincia a diventare grande, c'ha bisogno di questo, di quello. E chiedere alla famiglia quando si sa che i soldi non ci stanno è una sofferenza. Senza lavoro non si può vivere. Io l'ho cominciato a capire 2 anni fa, appena finita la scuola. Beh, bisogna tenere un cuore a parte per stare a casa, vedere i propri genitori affaticarsi tanto e non muovo un dito. Ma come fanno quelle che vivono solo per aspettare uno straccio di marito che se le porti via da casa? Ma come fanno? Nell'ambiente in cui sono stata costretta a vivere ci sta un gran numero di ragazze viziose. No, no, di eleganti prostitute che sono così per noia. Passano da un cocktail all'altro, giocano... Passano il tempo cercando qualcosa che possa salvarle da questa noia terribile che le divora. La loro vita è terribilmente inutile, di una spensieratezza, ecco, colpevole in tutti i sensi. Voglio dire che è gente che ignora tutto, ignora che cos'è la cultura, ignora che cos'è la povertà. Non fanno del male. Non sono nemmeno sciocche, non sono niente, ecco. Formano una parola odiosa, il gruppo. Comunque via Savoia io rimasi soltanto pensando che a casa c'erano bisogno, se no sarei andata via perché ce n'erano troppe. Molte l'avevo conosciute andando a cercare lavoro in altri uffici e altre l'avevo conosciute a scuola. Ma la maggior parte erano un po' come me, alla buona. No, però me ne ricordo una, no? Che stava sempre in disparte e ci guardava dall'alto in basso, si dava un sacco d'aria come se lei non stesse lì per bisogno. Io avevo visto la suola delle scarpe un po' sfondate, no? E dissi tra me, sì, chiacchiera, come se non si vedessero le sole rotte. Guardi, a me mi fanno una rabbia, ma una rabbia? Quelli che si vergognano perché a casa stanno male. Ma che me ne c'è non essere ricchi? Io ho i parenti che stanno bene, no? E non li invidio per niente, perché poi, secondo me, la gente ricca è pure un po' scema. Ci sono alcune di queste ragazze che cercano anch'esse lavoro. Lavoro. No, loro vogliono il job, lo svago, dicono loro, più una posa che altro. Pongono condizioni per lavorare, o al mattino o al pomeriggio. Ecco tu, in via Savoia, le ragazze del mio ambiente non le avresti potute trovare. Perché loro cercano il job... E lì si trattava invece di prendere soltanto 7.000 lire al mese per stare tutto il giorno a sgobbare sulla macchina da scrivere. Io mi ci trovai. Perché noi da 2 anni viviamo nei debiti fino al collo e allora non era più il job che cercavo, ma un lavoro vero per vivere e per aiutare a vivere la mia famiglia. Pensi che nel palazzo dove lavoro c'è un giovanotto... Che dicono che è marchese e che mi fa la corte. Sì, però come se fossi la sua serva. Beh, io non lo guardo nemmeno. Comunque, da via Savoia io mi sono risvegliata direttamente all'ospedale. E quando ho ripresi conoscenza mi accorsi di non vedere. Credetti di essere cieca. No, poi però un'infermiera mi disse che non era niente di grave, che erano le bende. E poi ho sentito la voce di mio padre e mi sono accorta di avere le mani bagnate. Erano le sue lacrime. Lei lo sa come piangono gli uomini, no? No, non come noi donne, perché le donne si inghiozzano, gli uomini no. Mio padre sussultava tutto. La prima volta che ho visto piangere un uomo, mi sono messa a piangere pure io. A 15 anni io m'ero fidanzata ufficialmente con un giovanotto di 28 che faceva il fattorino dell'ATAC. E quando ci siamo lasciati, lui si è messo a piangere. E io non me lo dimenticherò per tutta la vita. Perché mio padre diceva che io mi dovevo sposare un uomo con altra posizione. Ma io non la penso così. Non è una questione di posizione, perché due possono essere felici anche senza un sordo. Beh, certo è difficile. Bisogna volesse proprio bene, perché senza soldi non si fa niente. Ma che brutta vita. Almeno io prima mi divertivo a leggere, io ci credevo a tutte queste riviste tipo Intimità. Adesso ho capito che la vita è un'altra cosa. La vita è che se non paghi l'ospedale vengono a casa e te pigliano la macchina da cucire e la radio. Sì, io canto. Io canto. Attocchi, attocchi, la campana suona. I turchi sono arrivati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte, la risola. Le mie lo ha risolate stamattina. Scusate, scusate, qualcuno sa dov'è Via delle Mimose? Via delle Mimose, Mimose. No. Allora, qui ci sta Via delle Rose, Via degli Anemoni, Via degli Asfodeli, Via delle... Oh, a cento celle, tutti i nomi delle strade sono dedicati ai fiori. Ci sta pure Via delle Azalee, che come tutti sanno è il fiore preferito del nostro sindaco di Roma. Allora, prima ci stava questa località chiamata Cento Celle, dove abitavano i piccoli contadini della campagna romana che di giorno venivano a Roma a fare i muratori e la notte lavoravano la terra. Fu soltanto nel dopoguerra, con le folle di emigranti meridionali abusivi e con i battaglioni di giovani reduci senza casa, che Cento Celle nacque come centro abitato. Ben presto arrivarono gli industriali romani. Gli industriali edili romani, sempre allerta, e crearono il dolce miraggio della bella casetta immersa nel verde, sì, con il quale ipnotizzarono impiegatucci, uscieri, anche qualche nuovo ricco. Buon ultimo poi arrivò il fascismo, fece distruggere i rigogliosi campi di fava romanesca e costruì un bel aeroporto militare. La fretta dei costruttori di intascare il denaro delle pigioni è tale che questi addirittura affittano appartamenti in palazzini ancora in costruzione e battezzano le strade ancora prima che queste nascano. Le strade che cercavo infatti ma sembravano quasi introvabili. I passanti, ai quali chiedevo le informazioni, mi rispondevano tutti alzando le spalle con una sorta di fatalismo, come a dire «Toh, eccote un'altra via nuova». E infatti Via delle Mimose non esisteva ancora. Inseguendo le vaghe indicazioni degli sconsolati passanti, arrivai proprio fino al limite estremo dell'abitato. E lì ci stava una casa in costruzione. E l'ingegnere del cantiere, ma con un tono di impazienza, mi disse «Ma è quella, no, Via delle Mimose?» indicando con gesto perentorio l'aperta campagna. Senza avere il coraggio di replicare, io mi inoltrai per i campi. No, speravo che qualcuno mi richiamasse, magari l'ingegnere, e mi dicesse «No, dai, ha capito male, Via delle Mimose quella lì», e mi indicasse stavolta una strada normale, fiancheggiata da palazzi. No, no, io camminai in mezzo ai campi e nessuno mi richiamò. Arrivai davanti a un'altra casa in costruzione. Forza Roma. Ma questa volta abitata. Mi scusi? Scusi. Signora, sì. Mi scusi, sì. Via delle Mimose. Via delle Mimose? Sì. È questa qua. Ah. E il numero 21? Il numero 21? Sì. È questo qua. No, avrei voluto chiedere dove fossero gli altri 20 numeri, ma ho evitato per non creare spiacevoli discussioni. Signora, mi scusi. Cercavo la signorina Paola Semproni. Ah no, Paoletta non ci sta, però può dire a me perché sono la nonna. Sa, vengo per il fatto di via Savoia. È ancora un'altra volta dall'ospedale, guardi, abbiamo pagato tutto quanto. No, io non c'entro con l'ospedale, no. Noi stiamo facendo un'intervista per poi fare un film. Ah, bravi, ci fate il film, sì, eh? Io mi chiamo Elio Petri. Usti disgraziati, imbuniti, maledetti, dovete andare a proprio a votare. Basta! Mio padre fa il geometra. Ho tre fratelli e una sorella. Ho fatto le commerciali con grande sacrificio di tutta la famiglia. Papà veramente avrebbe voluto che io studiassi lingue, ma poi i soldi non sono bastati. Quindi ho sempre dovuto cercare lavoro per aiutare in casa e ho faticato tanto, sa? Poi sentivo mia madre che borbottava e diceva ma è la buona volontà che ti manca, io mi davo da fare, ma oh, sono stata disgraziata ogni volta io trovavo una che era arrivata prima di me. Ora non cerco più posti, no, da quella volta di via Savoia, e non è per cattiveria. è che non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Mi sento stanca, mi sento vecchia. Poi il bisogno della famiglia più passa il tempo e più cresce. A sposarmi non ci penso, no? Sono fidanzata da 3 anni ma non ne vedo la fine perché sono un po' nervosa e con lui ci litigo sempre. Poi la sua famiglia non vuole. Dicono che sono una poveraccia, una malata. No, no, no, no, non mi piace. Non mi piace che lui non abbia il coraggio di rispondere come si deve a casa sua quando gli dicono quelle brutte cose sul mio conto. E tra l'altro il mio fidanzato guadagna pure poco, eh. E il corredo? Me lo dovrei fare da me perché papà non può assolutamente. E io lo capisco. Anche se lui strilla, strilla sempre, strilla. Io lo capisco perché è la vita che ti riduce così. La vita. Ma lo sa che la vita io la pensavo proprio diversa. Cioè io prima dormivo come un ghiro, a me non mi svegliavano, ma nemmeno gli attacchi aerei notturni, ora invece niente, io non riesco più a dormire. Ricordo che durante la guerra sfollammo in Abruzzo e non mangiavamo quasi laggiù perché non c'avevamo una lira, però c'era sempre la speranza che la guerra finisse e che noi ritornassimo a vivere. Ora no. Ora è sempre uguale. Io non so cosa sarà della mia vita. Non credo che sposerò, almeno per adesso. Non credo che troverò da lavorare. Questi pensieri mi girano per la testa. È giorno, è notte, è giorno. Poi la notte sento passare tutte le ore nel suono del pendolo della vicina che abita nell'appartamento vicino al nostro. Ma che devo fare, eh? Mia sorella, più piccola, lei però l'ha trovato un lavoretto. Cuce le imbottiture per le spalle dei vestiti per conto di una sarta e si alza sempre alle 5 e mi sveglia e io ci litigo, è più forte di me. Ma tanto litighiamo sempre a casa mia, sa? Per una cosa, per un'altra, per stupidaggini. Ci prendiamo in giro, ci rispondiamo sgarbatamente. Non è una casa tranquilla questa, no? E questo mi nervosisce sempre di più. Ecco. Lo sente? Lo sente? Questo invece è quello di sopra. Quello che fa quegli esercizi al pianoforte, quelli sempre uguali, sempre uguali. Oddio. Ma lo sa che a volte a me mi sembra proprio di impazzire. No. No, io sono stata fortunata. E certo, così dicono, perché ci sarei potuta rimanere là sotto. Pensi che all'inizio la ferita mi aveva fatto gonfiare tutta la faccia. Io pensavo di rimanere così mostruosa per tutta la vita. Ho avuto dei momenti di disperazione vera, poi i giorni passano, i mesi, gli anni, e le cose un po' si dimenticano. A tocchi la campana suona, i turchi sono arrivati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte, la risola, le mie lo ha risolate stamattina. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli, qualcheduno me la da pagare. Amore, amore, mandami un saluto, che sto a San Michele carcerato, da amici e da parenti abbandonato. Mi sento un povero albero caduto. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli, qualcheduno me la da pagare. E si desfortunati stannarmono, uno di quelli me posso chiamare. Butto una paglia al fiume e me va a fondo. all'antri veder ferro galleggiare. E come devo... Ma s'accomodi, s'accomodi. Marisa abita in una modestissima casa al centro di Roma, in una di quelle antiche strade comprese tra il Colosseo e Via Nazionale. È una strada questa, popolata fino all'inverosimile da bambini. Cosa che del resto, però, non impedisce ai giovani amanti della velocità di sfrecciare a tempo di record quel loro motoscooter. Viene da parte dell'avvocato, no? Lo sa? L'altro ieri ci è arrivato il conto dell'ospedale, ma se lo paga quello dell'annuncio! Se sbagliate grosso, se pensa che io tiro fuori una lira. Anzi, ci devono dare risarcimento. A Marisa sta disgrazia, gli ha rovinato la salute. Per me la causa è già vinta. Guardi. Veramente, io vengo per un'altra ragione. Ho spiegato alla donna cosa fossi venuta a fare. Alla parola cinema, la donna ha mutato completamente atteggiamento. Ah, vabbè, ma allora s'accomodi. Noi siamo de casa da ste parti. Non c'è settimana che non ci vengono a girare qualche firme nuovo. Elvira! Ma chi è? È uno del cinema che cerca Marisa. Mamma mia. È mio marito. C'ha il mar de gore. E la bronchite cronica. Per troppo fumà. Ma non è vero. Non è vero. Stultimi mesi siamo stati proprio disgraziati, guardi. Prima me si è ammalato lui. Poi avevamo avuto Marisa all'ospedale con la disgrazia di via Savoia. Se lei sapesse quanti sordi se ne vanno che manco te ne accorgi. È entrata in silenzio una bambina di 5-6 anni, biondina, dagli occhi azzurri. Questa è Lilli, mia figlia. Su, presentati al signore che se ti comporti bene ti fa fare il firme. Lilli. Tanto è bella. È bellissima, ma sua figlia Marisa invece ma arriva. Sì, Marisa c'è un attimo, mo torna subito. Comunque Marisa non è figlia mia, io sono la zia. Bella de mamma, vai a giocare un attimo di là, no, che la mamma deve parlare con questo signore. Vai. Dica un po', lei è proprio del cinema? Non dico, non è che sarà un giornalista? No, assolutamente no. Gli piacerebbe un bel soggetto ben firme? Una storia tipo l'angelo tra la folla, tanto per capisse? Oppure io glielo dico, lei ci fa firme e mi ruba l'idea? Ma si figuri, ma assolutamente no. Ma per chi mi ha preso? Ha visto Lilli? Qua la pupa? Sì. Manco quella è figlia mia. È proprio una storia da firme, guardi. Una sera, io e mio marito stavamo a Pier Fresco al caffè Esperia a Viale del Re, quando vedemmo passare due finanzieri con fagottello in braccio. Era un pupo in fasciola. C'aveva due occhi che parevano due stelle. Allora mio marito ha detto, guarda si chiocchioni, che ce lo date se lo pigliamo noi? Era il 12 ottobre 1945. Io gli ho detto, scusa Remo, ma che gli damo da magnali ceci? Ma niente. Lui si era impuntato. Disse, beh, voi che non troviamo da magnare per una creatura piccola così? E così andammo a presso i finanzieri. Vabbè, per essere sincera, ma sì, insomma, sta storia da veccia in fio mi cominciava a piacere pure a me, perché da sto punto di vista io e mio marito non siamo stati tanto fortunati. Comunque, arriviamo al commissariato, togliamo le fasce al pupo. Era una femminuccia. E beh, ci sono rimasta male, ma che ce fai con una femmina? Ma niente, lui si era impuntato, disse, beh, è che le femminucce sono proibite. Non ce l'hanno data subito, no. L'hanno tenuta 4 mesi al brefetrofrio e dopo ce l'hanno data. Sti finanzieri. Ma non l'avevano trovata al boschetto del Giannicolo? Che non sia mai Dio se la potevano mangiare le bestie, sti cani randaggi, sti gattacci che vanno in giro la sera. Hanno ritrovato la madre, sì. Era una che faceva i servizi da una signora dei Parioli, la Restorno, sì. Lei prima ha negato, poi ha detto che era la nipote, poi alla fine si è messa a piangere e ha confessato tutto. Ha fatto 2 mesi alle mantellate. Adesso sta a Milano a lavorare. Elvira! Ma che gli stai a raccontare? A questo signore gli sto raccontando del fatto di Lilli. Se ci potesse venire fuori un film, non ti pare? Io un film lo farebbe su di te. E vattene, Remo, mamma mia, che brutto. brutta cosa che sei. Allora, e dica un po', non gli piace sta storia? È una storia come un'altra. Oh. Ah, ancora qua stai? T'ammazzo, sa. Ma state zitta. Oddio, mo mi sta venendo in mente una cosa. E non è che voi ci fate il film e me lo fate interpretare da Lilli mia e poi lo viene a sapere la madre? Non ci può combinare qualche guaio. No, dico, non vorrà la grana. Ma che, Marisa? Ah. Suonai a lungo il campanello di Rosa. Stavo quasi per andarmene pensando che in casa non ci fosse nessuno, quando all'improvviso la porta si aprì. E sulla soglia comparve una donna di 40 anni, nera come il carbone, butterata dal vaiolo, coi capelli crespi e già grigi. Scusi, sì. Cerco Rosa. Sono io. Ah, le spiegai le ragioni della mia visita e mi fece entrare. Avanti. Pregandomi di non fare rumore. Attraversammo molte stanze completamente al buio. In fondo baluginava il chiarore di una candela. Alla fine Rosa mi condusse in cucina. Sa, i padroni sono furibondi. Gli hanno tagliato la luce. E anche il telefono perché non pagavano. Non pensavo che Rosa facesse la domestica. Sono commercianti, però stanno sull'orlo del fallimento. La famiglia dove Rosa lavorava porta il nome di una delle più note casate ebraiche romane. Il palazzo dove lavora è situato nel cuore del quartiere ebraico ed è una di quelle costruzioni imponenti erette nell'Ottocento per conto di ricchi ebrei. Non me ne va bene una. Me ne potrei andare, perché non mi pagano, però io mi affeziono alla gente. Sono stati buoni quando che le cose andavano per il verso giusto. E poi voglio vedere se riesco a prenderli i nostri, cioè, sti quattro soldi che mi devono dare. Se me ne vado, chi li vede più? Ah, però questo che andai in via Savoia. No, non so scrivere molto bene a macchina, però tanto c'era scritto primo impiego. Io mi ero messa d'accordo, con i padroni che avrei pulito la casa, fatto da mangiare, e però loro, in cambio, dovevano permettermi di fare un altro lavoro. Lavori, ne ho fatti tanti, sa. Ho fatto la operaia in una fabbrica di bambole. Conosco bene il francese. E allora ho fatto anche un po' interprete bambinaia, dama della compagnia, in casa della... Della? No, di una, dai, famosa attrice del cinema muto. Ma in via Savoia chi me l'ha fatto fare di andare? L'indovina me l'aveva detto che sarebbe successo qualcosa di grosso. Io pensavo di poter finire sotto a un'auto, sotto a un tram, ma proprio sotto a una scala. No. Rosa parlava in un modo strano, senza R. La storia della mia vita. La storia della mia vita è più complicata dei romanzi della Milli Dandolo, che pure mi piacciono tanto. Sono nata a Tripoli, sì, nel 1912. Mio padre era un vecchio coloniale, stava bene, commerciava in mille cose. È che io adesso dovrei raccontarle cose che sono un po' troppo intime, meglio di no. Ci sono dei periodi della propria vita che uno si vergogna, anche se non si sente responsabile di quello che è successo. Vabbè, dai, insomma, da Tripoli io me ne dovetti scappare nel 1939 perché c'era un uomo che mi voleva prendere a tutti i costi e io non potevo sopportare perché era una cosa troppo brutta. E più di questo non posso proprio dirle. Per salvarmi da questo peccato dovetti scappare. Rosa mi guardava intensamente, cercando di comunicare con lo sguardo il suo segreto. Rosa era donna capace di credere allo spiritismo, alla trasmissione del pensiero. È il peccato più grave che possono commettere un uomo e una donna. Quest'uomo era accecato dalla passione ed improvviso la rivelò. Mi disse che lui fino allora si era trattenuto, ma che mi guardava fin da quando io ero cominciata a crescere. E un anno fa mi sono sposata. Tutto bene. Non sono mai stata fortunata con gli uomini, non ho mai avuto niente da loro. Io sono un tipo che si affeziona facilmente, do il cuore alla persona amata. Ecco, quello è il momento che hai più dispiaceri. È vero. Sono brutta, lo so. No, non dica no, perché tanto io lo so. E per una donna come me è più difficile la vita. Mio marito, lui mi parve diverso. Ma come sempre c'era qualche inconveniente. 48 ore dopo il matrimonio lui dovette partire per l'Argentina come appaltatore. E da allora io non l'ho mai più visto. Ah, fino all'ultimo, lui voleva portarmi con sé. Sono stata io che non ho voluto, perché andarmene dall'Italia, mamma mia, mi sarebbe sembrato come quando re Umberto II andò in Portogallo. Mi sarebbe sembrato di partire per l'esilio. Gli ho scritto chiedendogli di liberarmi da ogni impegno con lui, però lui non ha voluto e allora io sono qua che aspetto. Aspetto. Aspetto che lui ritorni. È difficile, sa, alla mia età aspettare. Io preferirei essere libera. Questi sono gli ultimi anni di vita vera che ha una donna. E qui Rosa mi ha dato la chiave del suo segreto. Un brutto, un penoso segreto. Uno di quelli che rendono tragica un'intera vita. Se mio padre non era quello che era, a quest'ora io sarei una madre e una moglie felice. Mio padre, capisce? Mio padre! Invece che stare qua a capare cicoria per gli altri, ma me ne starei a casa mia seduta in poltrona davanti alla radio a sentire la musica di Mascagni, di Puccini, che mi piace tanto. Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. E poi avrei un po' di tempo per fare qualche cosa per la causa del re. Due delle ultime donne che io dovevo ancora intervistare abitavano in un campo profughi, il campo Parioli. E anche ai baraccati di campo Parioli il sindaco Re Becchini aveva promesso una vera casa. Sì, sì, l'aveva anche dichiarato alla radio. La costruzione di Ponte Flaminio di per sé stessa significa che gli abitanti del campo Parioli dovranno essere definitivamente alloggiati. Sì, Ponte Flaminio è finito da anni ormai. E il comune ha risolto la questione costruendo altre baracche da un'altra parte. Vabbè, l'ingresso al campo però è tutt'altro che tetro. Da una parte si alzano i caseggiati signorili del lato nord del Flaminio e dall'altra parte invece spuntano così tra il verde in collina le eleganti palazzine dei Parioli. Ma allora la posizione è invidiabile. Beh, poi gli abitanti di Campo Parioli hanno anche qualche bella soddisfazione, perché vengono considerati dal comune come abitanti del quartiere Parioli e vanno a votare nelle stesse sezioni elettorali dei miliardari. Che fortuna. Sì, però oltrepassato il cancello d'ingresso si offre la vista sconcertante di una decina di capanne arrampicate sulla piccola tribuna del vecchio ippodromo Parioli. E poi? Ma per chilometri quadrati, fino ai campi da tennis delle rive del Tevere, una distesa incomposta di tetti di bandone ondulati, rattoppati, arrugginiti. Beh, però il sole di giugno è così benevolo che riesce a indorare anche gli stracci e i tuguri di campo Parioli. Qualcuno forse è memore del suo vecchio mestiere, ma non ha piantato lì dei campetti, degli orti tra le baracche. E infatti risplendono improvvise queste macchie gialle, verdi. Ma veramente, viste da vicino, le spiche sembrano tutte sporche, malaticce, i pomodori vuoti di sugo. A dozzine i bambini corrono all'impazzata. E le donne stanno lì sulle soglie delle baracche a dipanare le loro eterne matasse di lana. Sembra una specie di paese meridionale trapiantato a Roma. Sì, le donne anziane vestono una paesana, portano gli zinali neri, hanno i capelli raccolti a cono sulla nuca. Si sente risuonare il ciociaro, l'abruzzese nei richiami delle donne ai bambini. No, guarda, ci sta pure una capra che fa capolino dall'uscio di una baracca. Scusate, sapete dove abitano Maria Luisa e la madre? Scusate, sì, qui al campo. Chi? Sto cercando Maria Luisa e la madre. Ma Maria Luisa? Ma come si chiamano? Sì, le Papati, cognome... le signore Papati. Ma non le conoscete? No. Niente, per quanto io cercassi dove abitavano le due donne, nessuno al campo sembrava ricordarsene. Finalmente incontrai una donnetta che pareva ricordare chi fossero queste due donne. Ma certo, se lei dice Maria Luisa, poi dice le Papati, ma certo che non se ne ricorda nessuno. Lei deve chiedere della nanna. E allora sì che se la ricordano. Ma che si chiamano Papati? Papà. Si chiamano. Il signore cerca quelle che prima vivevano qua. Adesso abitano al quartiere del Tufello. Scusate, ma perché la chiamano la nana? Perché è una nana, semplice. Vabbè, ma proprio nana nana oppure... Sarà alta un metro e quaranta, come la vogliamo chiamare, non so io. Ma come le sarà venuto in mente di mettersi a fare la dattilografa? Secondo me sono un po' picchiatelle, tutte e due, sia la mamma sia la figliola. No, poi bisogna dire che non sono proprio di Roma, sono di Littoria. Non sanno dire una parola presta un'altra. E specialmente la figlia, secondo me i genitori si sono fatti sto ragionamento. A sposà, non sa sposa nessuno. Almeno se trova un impiego e sta a posto. Senza pensare che la figlia è una nana. Io pure ho preso il diploma da stenodattilografa, ma ho dovuto rinunciare da un pezzo a cercare lavoro negli uffici. Oh, io non lo so come fanno, ma tolgo con un faccia che non sei nata per fare l'impiegata. Ma te non ti piano perché non sei fine, non no, sei. No, c'entra, guardi che qua tutte quante, sa, tutte in un momento così no. Di illusione, anche te abbiamo preso sto diploma da stenodattilografa. Ma se non c'hai i soldi per Rossetto, per le scarpe buone, per far bella figura coi padroni? È inutile mettersi in giro, sa? Guardi a me, io ho 20 anni e ne dimostro già 40. Ma chi vuole che mi pigli con queste belle giovanotte che vanno in giro, sì? E che cosa dire di noi allora? Le più anzianotte del gruppo, vero? Che vogliamo metti andare a fare i mestieri quassù dalle signore dei Parioli. Ste qua ci vedono vecchiotte, mal vestite, un po' messe male e non ci prendono. Ma se una non gli dà da lavorare, quella non può né ingrassare e né vestisse bene. È una catena, no? Guardi, catena. Molto meglio cucire le divise per i soldati. Noi abbiamo fatto sta piccola cooperativa. Ecco. Si guadagna un po' poco, ma almeno è tutto nostro. E brava Mariangela! Sai cosa si dice al mio paese? Tose, stampatevi in testa sto motto. Oh, le mei un scheo del tuo che diese a paroncia. Ma ma si dice pure qua, si dice. Meglio un sordo del tuo che 10 lire a padrone. Ma si dice da voi, ma che sto scheo? Basta questa polemica. Si dice da voi, si dice da noi, sarà un motto giusto o sbaglio? Dai, va là. Speriamo che le cose vanno sempre meglio, vero? E così ci arrivano sempre degli altri lavori, così noi ci possiamo ingrandire sempre di più e non dobbiamo più andare a fare le schiave dalle sarte sacramonte voto anche per che mi rabbia se si parla di impazzita. No, guarda che fai una sincope gli via, ma non si può fare così. Però c'ha ragione la Franca, perché le sarte sono proprio cattive, ammazzale quanto so cattiva. A me per esempio mi tenevano un mese e mi mandavano via, io non ci riuscivo proprio a imparare il mestiere. Io tutto quello che so me l'ha imparato la Franca. È neanche vero. Una volta stavo a lavorare al laboratorio di via Veneto, c'era una signora, ammazzala quant'era cattiva, trattava tutte malissimo. Beh, peggio di tutte però trattava le modelle come puttane. Parole da dire al signore. Beh, con rispetto parlando. Ah, poi si diceva pure che gli piacevano le donne. La faccia ce l'aveva, brutta era. Allora. C'aveva i baffi. A me non mi poteva vedere. Una volta mi ha tirato un ferro che in momenti mi pia, un ferro da stiro. Allora me ne so ita. Secondo me mi ha piato. E comunque hai fatto bene. Almeno te te ne sei andata da sola con le tue gambette. Pensa alla standa. Mi ha raccontato Roberta, un'amica mia. Alla standa te cacciano loro. Lì tengono le donne col grado di vice commesse fino a 40 anni. Vice commessa fino a 40 anni. E poi a casa, oppure peggio ancora, se sono ventati sti contratti, come si chiamano? Ah, contratti a termine. A termine perché? Perché si rinnovano di sei mesi, così quando non gli vai più bene, con la scusa qualsiasi, ti mandano a casa. Sì, ma mica siamo fai, non si può fare. Ma lo fanno, sì, lo fanno. Oppure cosa fanno? Tengono le ragazze fino a 18 anni, vero? E dopo a casa belline sgambettare, se no devono alzare la paga nostri furbi. Ma quale furbi? Questi sono dei disgraziati, se ne approfittano perché tanto lo sanno. Loro lo sanno che c'è un bisogno di lavorare, che pur di guadagnare qualche lira, certe si mettono a fare qualsiasi cosa. Mariangela. Ma che hai capito? Sempre a pensare male stai. Pensi, qua al campo... alcune amiche nostre si sono messe a fa la cernita dell'immondizia . E una è morta di tifo fulminante. E allora? E quelli che vanno a raccogliere la cicoria? Ma cosa c'entra la cicoria? Ci vado anch'io. Lasciali vecchi, ci vanno tutti. Ma tutti, vai, bambini, fighi. Ma questo, questo è il ferro, questo è proprio il ferro, guarda. Comunque, peggio delle monache per imparare non ci sta. Io, quando ero piccoletta, andavo al laboratorio delle monache di via Giulia. Questa qua, voi fate imparare il mio mestiere, che facevano? Mi facevano raccogliere i fili per terra? Mi mandano la piala qua alla fontanella? Mi facevano pure pure i cessi, con rispetto parlando. E poi 2 ore in ginocchio a pregà. Ah... Che c'è? Mi so viene in avvenimento. La porta. Stavamo con un'amichetta. Con un'amichetta mia, no? Dai, coraggio. E lei c'aveva le... Dai! E lei c'aveva le scuregge d'ernecuse. Che sono le scuregge d'ernecuse? No, ma che ne sai? No, sono quelle micette che fanno sparare i maschi che rivoltelle. Allora, stavamo in ginocchio a pregare. Io gli dico famo scoppiare le scuregge d'ernecuse. Allora stavamo in ginocchio precoce, zitte, e c'è tutto, e c'è tutto. E sono scoppiate, tutte ride. È matto. Tutte ride. Meno che le monache, che già avevano scontato per 2 mesi in ginocchio a pregare. L'unica cosa che mi ricordo con piacere fu quando ci portarono con l'autopullman a Castel Gandolfo a salutare papà. E allora ci dettero un sacco di bandierette bianche e gialle, noi a sventolarla gridate dal papà! E dal papà! E dopo il papà s'affacciò e ci disse: figliole benedette, pecurelle smarite, ite. Ah, volevo piantare con ste bandierette! Pensa questa proprio! No, non è vero. Ci disse te se buone. E poi ci dettero da magna un pane mortadella e una pera. Ma però quando io sono cresciuta me ne sono ita dai monache, che quelle sono tremende, sa. Te fanno lavorare come una matta. E te pagano malissimo. Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre maltrattato fino all'ultimo respiro. Saluteremo il signor padrone perché sono le 5, appena già ci aspettano le spole, su corriamo a lavorare. Batti, batti mio telaio, batti in fretta, batti contro questo seno, che così il padrone almeno nell'oro potrà sguazzar. O telaio, non strappare questo filo, che se no il padron ci insulta, e poi con una multa, e i cidi mezza al pan. Saluteremo il signor padrone per il male che ci ha fatto, che ci ha sempre maltrattato fino all'ultimo respiro. Saluteremo il signor padrone, noi che siamo ognor derise, sol perché siamo divise, sol perché non ci associam. Saluteremo il signor padrone, che più nulla temeremo se noi saremo, non dovremo. eravamo diventate quasi amiche e che si andava tutte negli stessi posti, qualche volta non se ne incontrava una perché aveva trovato lavoro, o perché era stata fortunata, o perché aveva accettato condizioni capestro, tipo lo stipendio, tipo la pacca sulle spalle, tipo, chiamiamoli tra virgolette, avvicinamenti vari del titolare dell'azienda. All'epoca si può dire che nello stipendio era il tutto compreso, anche le avanze del principale, e tant'è vero che non mi ricordo se all'epoca c'era già Marco Aurelio o Candido, non mi ricordo, però la vignetta ricorrente era quella della segretaria seduta sulle ginocchia del principale.